maiali in serie. Il modello industriale applicato alla produzione di carne. Il consumo annuo di carne pro capite in Europa si aggira intorno ai 98 kg. In Italia il dato è leggermente più basso della media europea, raggiungendo circa 95 kg a persona per ogni anno. Di questi, quasi 40 sono di carne suina. Naturalmente, quando si parla di carne suina, bisogna tenere in considerazione tutti i prodotti derivati dalla lavorazione del maiale, come ad esempio gli insaccati. Tra i fiori all'occhiello del Made in Italy alimentare ci sono i salumi, ben 34 hanno il marchio DOP o IGP. Il fatturato del settore è stato lo scorso anno di 7,9 miliardi di euro, più 4,3% rispetto al 2009. Secondo il rapporto Assica, l'Associazione Industriali delle Carni, ogni italiano consumerà nel 2011 32 kg di salumi e carne suina. Nel mondo le tipologie di allevamento sono molte e diverse tra loro. Fattori come il clima, la conformazione dei terreni, la disponibilità di risorse, ma anche elementi come le culture e le economie locali fanno assumere ai sistemi di allevamento forme diverse sia per dimensione sia per tipologia di tecniche utilizzate. Negli ultimi decenni si sono andati però affermando a livello globale gli allevamenti intensivi, che facendo leva su logiche industriali e agendo su vasta scala sviluppano tecniche standardizzate, atte ad abbattere costi e tempi di produzione. Le tecniche di allevamento intensivo vengono adottate e applicate alla produzione di carne, latte e uova. In questo speciale, prodotto in collaborazione con l'ONG MAIS, nell'ambito del progetto Creating Coherence, ci concentreremo in maniera particolare sugli allevamenti intensivi di suini e sugli impatti ambientali e sociali che questi producono. Lo faremo a partire da un caso concreto, quello della multinazionale statunitense Smithfield Foods. Smithfield Foods è una grande corporation che, con 27 milioni di suini lavorati ogni anno ed un fatturato di 12 miliardi di dollari, è senza dubbio l'azienda leader mondiale in fatto di produzione e trasformazione di carni suine. Tra le particolarità di Smithfield Foods c'è il fatto di aver concentrato nelle proprie mani l'intera filiera della carne, dall'allevamento alla macellazione, dalla trasformazione al confezionamento. I prezzi della carne suina, grazie ai metodi di allevamento intensivo applicati da Smithfield Foods come da altre grandi imprese, sono scesi sensibilmente fino ad un quinto negli Stati Uniti, modificando radicalmente il mercato. Purtroppo non senza costi sociali e ambientali importanti, ma procediamo con ordine, andando a ricostruire la vicenda della Smithfield Foods. La società nasce nel 1936 come compagnia di imballaggio Smithfield. Dopo aver acquisito altre società, quali la Eckrich, la Farmland Foods e la Premium Farm Standard, ha riconvertito la propria attività sulla produzione di carne suina. Con sede centrale a Smithfield, Virginia, la compagnia vanta stabilimenti in 26 degli Stati Uniti, ma è presente anche in Brasile, Cina, Francia, Messico, Polonia, Romania, Spagna, Regno Unito. Vogliamo che chiudano le grandi aziende agricole, che fermino le importazioni non regolamentate. Il problema principale è l'allevamento dei suini della più grande multinazionale al mondo, la Smithfield Foods, che ha acquisito Animex nel 1999. Guadagno il 30% in meno rispetto ai costi di produzione. Finanzio la produzione con i miei soldi. Per guadagnare dobbiamo andare in Inghilterra o in Irlanda. Non so se andare in pensione, impiccarmi o emigrare. Ciao. Queste erano le voci di alcuni allevatori polacchi tratte dal documentario Pig Business, che analizza l'attività della Smithfield dentro e fuori dagli Stati Uniti. Già nel 2008 ci sono state importanti proteste da parte degli allevatori polacchi contro la presenza della Smithfield Foods nel loro paese. Ma perché gli allevatori locali sono così infastiditi dalla presenza della multinazionale? È solo una questione di interessi corporativi o c'è sotto qualcosa di più complesso? Quello della Polonia è effettivamente un esempio molto interessante. Smithfield Foods ha impiantato parte della produzione in Polonia alla fine degli anni 90. Joe Lutter, allora dirigente dell'azienda, dichiarò che avrebbe fatto della Polonia l'Iowa d'Europa. La multinazionale iniziò acquisendo i grandi macelli e allevamenti, storicamente in mano allo Stato. Poi iniziarono ad aprire altri allevamenti. Attualmente producono circa 3 milioni di capi all'anno, tra il 15 e il 20% della produzione polacca. Anche se la percentuale non sembra enorme, la presenza di Smithfield Foods ha alterato sensibilmente il settore in tutto il paese. Si crea una concorrenza internazionale ingiusta. Gli agricoltori polacchi producono alimenti di migliore qualità, ma fanno molta fatica ad accedere a forme di credito semplici ed economiche per sviluppare le attività. Nessuno può affermare che vi sia una sana concorrenza. Io la definirei distorta. Come spiega Jan Ardanowski, sottosegretario di Stato dell'Agricoltura in Polonia dal 2005 al 2007, non si tratta di una concorrenza reale. Al contrario, l'impianto di strutture di allevamento intensivo ha semplicemente estirpato l'allevamento tradizionale, rendendolo non competitivo e obsoleto. Non guadagneremo nulla a causa dell'arrivo di così grandi allevamenti di suini che utilizzano tanti additivi per far crescere i maiali in fretta. I nostri maiali impiegano 6 mesi a crescere, quindi questa attività per noi non è redditizia. Se i prezzi si abbasseranno di più, non guadagneremo nulla. Non va bene, perché le grosse aziende possiedono molti ettari di terreno e quindi ottengono molti sussidi dall'Unione Europea. Vogliono toglierle di mezzo per fare posto alle aziende più grandi. Alla fine finirà tutto in mano alle multinazionali, credo. Se le piccole aziende agricole verranno sterminate, verrà distrutta la cultura polacca e, di conseguenza, l'anima del paese. Quindi è una questione di progresso contro tradizione? Gli allevatori locali, le cui voci abbiamo ascoltato in questi contributi, ancorati ai loro metodi, si ribellano al nuovo che avanza? Non è neanche così semplice. Quando la Smithfield Foods è arrivata in Polonia, ha utilizzato le vecchie tecniche che non sono ammesse negli Stati Uniti, almeno per quanto riguarda le fattorie di nuova costruzione. L'impatto di questo modo di smaltire le deiezioni è enorme. Prima di tutto inquina l'acqua, che si tratti di fiumi o laghi. Lo stesso Mar Baltico è inquinato perché i gas emessi dalle deiezioni viaggiano per lunghe distanze, anche per centinaia di chilometri, e quando piove precipitano nelle acque. Questi gas sono molto velenosi per le persone. Si tratta di ammoniaca e solfato di idrogeno, sono molto pericolosi per la salute di quanti vivono vicino agli allevamenti. Come ci spiega Marek Krida, presidente della Indigena Foundation Polonia, una delle conseguenze fondamentali dell'arrivo di Smithfield in Polonia è stato l'inquinamento del territorio tramite lo scarico dei liquami dei maiali. In Polonia, infatti, grazie a una legislazione molto più permissiva di quella in vigore negli Stati Uniti, è possibile scaricare liquami direttamente nel terreno. Ma perché i liquami dei maiali sono così inquinanti? In fondo si tratta semplicemente di deiezioni animali, escrementi e quindi materiale organico. Sentiamo Gianluca Galassi, docente e ricercatore in zootecnia presso l'Università di Milano. Può percolare e arrivare in falda, nella falda acquifera, quindi dare problemi di inquinamento della falda acquifera. Sopra i 50 parti per milione di nitrati nelle acque, l'acqua non è più potabile, quindi bisogna produrre liquami, reflui zootecnici che abbiano meno azoto possibilmente e soprattutto gestirli molto bene. In Polonia, stando alle considerazioni del dottor Galassi, la produzione Smithfield Foods rischia di inquinare le falde acquifere. E in Italia? Ancora Gianluca Galassi. In Italia noi abbiamo circa 9 milioni di capi allevati. L'Italia con 9 milioni di capi allevati rappresenta circa il 6% del patrimonio suinicolo europeo. I capi allevati in Europa sono 150 milioni e rappresentano un po' meno del 20% del patrimonio mondiale. Nel mondo ci sono allevati ogni anno circa 785 milioni di capi. Quando il dottor Galassi parla di 9 milioni di capi, si riferisce alla quantità di suini allevati con metodi intensivi. Ma come sono distribuiti questi suini sul territorio nazionale? La metà di questi sono in Lombardia, quindi il problema è più lombardo. Lombardo e dell'Emilia-Romagna e in parte del Veneto. Quindi il problema reale è lombardo e di alcune province della Lombardia, in particolare province di Brescia, Mantova, Cremona, Lodi. In queste province bisogna introdurre il problema della concentrazione di nitrati nei reflui, nitrati quindi azoto, è questa sostanza che dà i maggiori problemi. Il problema sono quindi i nitrati e l'azoto che, se non gestiti, possono inquinare le falde acquifere. Ma cosa è accaduto con Smithfield Foods in Polonia? Ce lo racconta Marek Krida. La Smithfield Foods è accusata molte volte negli Stati Uniti di aver corrotto dei funzionari o dei politici per cambiare la legislazione, tanto negli Stati Uniti che in Polonia. Nel 2000, subito dopo l'arrivo di Smithfield Foods in Polonia, la legislazione polacca è cambiata, stabilendo che le deiezioni animali prodotte dai grandi allevamenti non fossero più considerati rifiuti speciali da trattare in modo specifico, ma riqualificate come fertilizzanti per l'agricoltura. Agriculture fertilizer. Corruzione e liquami. Questa la ricetta di Smithfield Foods per imporre il proprio modello. Ovviamente è più facile agire in questo modo in paesi con minore esperienza di mercato e più deboli sul piano economico. Assistiamo allo spostamento della produzione dai maggiori paesi produttori di maiali verso alcuni paesi come la Polonia, che hanno legislazioni molto leggere ed esercitano controlli molto poco efficaci. Spesso viene detto che queste produzioni vengono effettuate seguendo standard elevati, ma non è vero. La scuola dista 150-200 metri, è lo stabile più vicino all'allevamento. I bambini hanno spesso il naso che cola, gli occhi irritati e altre reazioni allergiche. Dopo Marek Krida abbiamo ascoltato un altro estratto dal documentario Big Business, realizzato nel 2009 dall'attivista inglese Tracy Louise Ward. Edmund Pawlak, presidente dell'Ecological Association Biekowice, ci ha raccontato il caso della scuola elementare polacca accanto alla quale viene impiantato un allevamento con 12.000 maiali, dove negli Stati Uniti non potrebbero essere più di 200. Un esempio che la dice lunga sulla situazione. D'altro canto, il problema non risiede solo negli escrementi, ma anche nei gas che vengono emessi dagli allevamenti intensivi. Una miscela tossica, come spiega David Wallinga, scienziato dell'Institute for Agriculture and Trade Policy del Minnesota, in un'intervista estratta sempre dal documentario Pig Business. Ci sono 10 milioni di suini in questa piccola area e questi 10 milioni di suini producono ogni giorno più escrementi di 100 milioni di persone. The first thing to realize when you're talking about the La prima cosa da capire quando si parla dei gas emessi dai grandi allevamenti suini è che si tratta di una miscela tossica. Numerosi gas volatili si mescolano a polvere, batteri e antibiotici e insieme formano un miscuglio complesso di 300 o 400 sostanze diverse. A questo sono esposti le famiglie e i bambini che vivono nelle vicinanze. One is exposing a neighbor or a family or a child to. Aspetto che meriterebbe maggiore attenzione è il modo in cui i maiali vengono alimentati. Sentiamo ancora il dottor Galassi dell'Università di Milano. Normalmente l'alimentazione è a base di farina di mais. Diciamo, parlando dell'animale all'ingrasso, per i suinetti in una fase di post-svezzamento il mangime è molto più curato, mettiamo anche appunto spesso farina, latte in polvere, siero di latte in polvere, insomma. Nella fase di ingrasso, appunto, le farine prevedono in Italia mais, all'estero più spesso farina di frumento o di orzo. Parlando di Italia, farina di mais in assoluto la più utilizzata. Poi c'è della farina d'orzo o di frumento, in quantità minore comunque. Poi soia, farina di soia che è una leguminosa, quindi un po' più ricca di proteine, questa porta proteine abbastanza nobile. Farine di carne e pesce sono utilizzate in una fase di post-svezzamento perché in questa fase appunto gli animali giovani appena svezzati hanno problemi dal punto di vista proteico. Lasciando il discorso sulle farine di carne e pesce, il cui utilizzo è da più parti indicato come rischioso per lo sviluppo di patologie quali la famosa mucca pazza dei bovini, concentriamoci invece sui vegetali. Di che origine sono i vegetali utilizzati per alimentare i maiali? Abbiamo rigirato la domanda a Todor Slavov, dell'ONG bulgara Zazemiata, che forma parte del consorzio Creating Coherence. Quando gli OGM sono stati sviluppati, sono stati introdotti nell'industria degli allevamenti, a causa di vari interessi dell'agrobusiness, soprattutto per arrivare ad avere un controllo sulla produzione di carne. Molte compagnie hanno giocato una parte importante nella produzione dei foraggi. Di fatto la maggior parte della produzione di latte e carne in Europa dipende dalle importazioni di OGM dall'America. Quindi i prodotti geneticamente modificati, ufficialmente banditi dagli scaffali dei nostri supermercati, rientrano dalla porta posteriore. La nostra organizzazione sta provando a far pressione sulle autorità europee perché cambino la legislazione per permettere ai consumatori di rendersi conto dall'etichetta, al momento di acquistare determinati prodotti, se si tratta di latte, uova o carne prodotti attraverso l'alimentazione OGM. Thank you. essere messi a conoscenza della presenza di organismi geneticamente modificati a monte della carne che acquistiamo nei nostri supermercati dovrebbe senza dubbio essere un diritto dei consumatori europei. Al tempo stesso, difficilmente sarebbe garanzia di un abbandono del consumo di carni prodotte tramite allevamenti intensivi. Il motivo, banalmente, sta nel costo molto più basso di questi prodotti rispetto a carni allevate con metodi biologici e tradizionali. I consumi sono pilotati, nel senso che il consumo smodato, per esempio, delle carni è assurdo, no? Una volta la carne si mangiava una volta a settimana, adesso tutti i giorni c'è la carne a tavola. Non è una democratizzazione, è una modalità che serve alle grosse distribuzioni, perché le grosse distribuzioni devono tirare fuori il prodotto. L'opinione di Cesare Frabetti, dell'azienda agricola Il Corniolo in provincia di Viterbo, è quella di un agricoltore allevatore che, a rischio di scomparire dal mercato, ha scelto di andare controcorrente. Come lui, sono decine gli allevatori che nel nostro paese allevano i maiali in maniera tradizionale. Tra loro l'azienda agricola Valli Unite, azienda cooperativa in provincia di Alessandria. Alessandro Poretti. Nel nostro caso, essendo una produzione artigianale, noi non abbiamo dei prezzi alti, ma abbiamo dei prezzi giusti. Noi abbiamo un prezzo che è normale. È chiaro che se tu fai un prodotto industriale, riesci, scendi con la qualità e scendi anche col prezzo, no? Ma a quanto ammonta questa differenza di prezzo alla produzione per i maiali provenienti da allevamenti tradizionali rispetto a quelli cresciuti in allevamenti intensivi? Cesare Frabetti. Partiamo già da un presupposto che tutte le vecchie razze sono state abbandonate perché erano antieconomiche, perché facevano pochi piccoli, perché avevano delle performance di crescita lente, per cui un animale per poter arrivare a raggiungere la maturità, chiamiamola così, maturità delle carni, deve passare più tempo. Un suino allevato intensivo, 10 mesi, 11 mesi, è pronto per la macellazione, a pesi molto più superiori di quelli che macello io attualmente. Io dopo 2 anni un suino mio, perché io dopo dai 24-30 mesi di macello, raggiunge un momento di macellazione 120 kg. Per cui capisci che un conto allevare un animale per 10 mesi e un conto portarlo avanti in vita per 24-30 mesi. L'allevamento intensivo gli danno un'alimentazione estremamente, diciamo, economica, nel senso che comunque quella miscela che preparano per l'allevamento intensivo è una miscela che costa molto di meno delle materie prime nobili. Il chilo del maiale mio a costi aziendali, cioè circa dai 14 ai 16 euro al chilo. Uno normale costa 2, 3, 3, 4 euro al chilo ci costa. I motivi dei costi ridotti della produzione intensiva non sono da ricercare solo nei metodi industriali e nella razionalizzazione dei costi. Esistono anche altri fattori che determinano l'affermarsi di questo modello. Sentiamo l'opinione di Ottavio Rube, sempre di Valli Unite. Ci riesco, in qualche modo ci riesco, anche perché poi tutti i semi che piantano, il mais e tutto, sono tutte cose sovvenzionate dalla PAC. Insomma, mentre all'oggi non ci sono, e questo è purtroppo l'handicap, non ci sono dei premi particolari per quelli che fanno pascolo in questo modo. Insomma, il mercato ha fatto in modo in tutti questi anni che sia abbassato notevolmente il prezzo della vendita di quello che costano certi prodotti alimentari. Risulta chiaro dalle parole di Alessandro Poretti di Valli Unite quanta ragione abbia Cesare Frabetti del Corniolo quando dice che non si tratta di una democratizzazione dei consumi. Questi sono invece pilotati. L'affermazione di un modello anziché di un altro trova radici nelle precise intenzioni politiche che determinano scarsità di informazioni ai consumatori cittadini rispetto alle modalità di produzione dei prodotti che acquistano, ma soprattutto del fatto che esistano in realtà delle alternative. È quindi difficile immaginare come si orienterebbero i consumi se fossimo maggiormente informati e se le produzioni intensive non fossero sostenute da interventi pubblici. Inoltre, la rete capillare della grande distribuzione facilita l'accesso al consumo di carne prodotta con metodi intensivi. ma la questione dei costi andrebbe calcolata in maniera differente, come ci spiega ancora Ottavio Rube di Valle Unite. Nel costo di produzione può aggiungere addirittura anche il doppio. I costi bisognerebbe farli, come in tante altre cose, alla fine della catena alimentare. Insomma, cioè, qua abbiamo, da una parte abbiamo comunque un allevamento che, come voi sapete, inquina delle falde acquifere, fa un uso di acqua esagerata, cioè un allevamento che oggi è molto messo in discussione. Non parliamo poi della FAO o di certe organizzazioni anche mondiali che dicono che non si può più allevare carne in quel modo. Dall'altra parte parliamo di un allevamento che innanzitutto c'è un uso incredibilmente più basso di acqua, perché l'acqua si usa solo quello che il maiale mangia. Tutti questi terreni non vengono innaffiati, tutti i raccolti che noi abbiamo seminato non viene usato acqua, sono tutte cose naturali che vengono senza. Non si inquinano i terreni, al contrario, un buon pascolo lascia un terreno, diciamo, alla pari. I costi andrebbero misurati in maniera complessiva. Quotidianamente, nella nostra vita di tutti i giorni, abbiamo accesso a carni e prodotti derivati a costi competitivi e piuttosto accessibili, che consentono e probabilmente stimolano un consumo di questi prodotti molto più diffuso e senza dubbio eccessivo e squilibrato. Quanto ci costa tutto questo in termini di inquinamento, salute, consumo, risorse energetiche e acqua? Questa è la domanda che dovremmo porci nel pensare alla nostra alimentazione e nel fare i nostri acquisti. Maiali in serie è uno speciale radiofonico realizzato con il sostegno e la partecipazione dell'organizzazione non governativa MAIS nell'ambito del progetto Creating Coherence, prodotto insieme alle organizzazioni Fair Watch di Genova, Xarsa di Consum Solidari di Barcellona, Both Ends di Amsterdam, Zazemiato di Sofia e Protect the Future di Budapest.